Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, 8 e 20 minuti, ben ritrovato. Eccoci si qua. Si riparte. Eccoci qua, in attesa della legnata che prenderà il torneo della Lazio. Io sono qui stasera. Ma no, dai. No, vabbè, io sono in chiave UEFA, dovete cercare di batterli. Sono un realista, cioè di batterci, sì, però insomma, vabbè. Detto tutto questo, comunque oggi San Rodrigo di Cordova, che pensa, questa la storia è complicata alle nostre spalle, come si vede? L'almanacco del giorno dopo. Ah, qui siamo a un classico veramente di quando eravamo ragazzini, la sera in televisione, però va benissimo. San Rodrigo di Cordova muore nell'VIII secolo, Cordova all'epoca era occupata dai musulmani, e il problema è che finisce con un fratello cristiano e un fratello musulmano. Ognuno dei due dice che appartiene alla sua religione. Lui era cristiano, il musulmano dice ai suoi: no, si è convertito. Lui dice: no, non è vero. Insomma, gli tagliano la testa. Come si vede, si innestano due dei grandi motivi di conflitto: le risse nelle famiglie e le risse tra religioni. Il santo ci dice più o meno questo. Adesso ovviamente io sono un po' laico. Tra gli altri santi di oggi, Ansovino, Cristina, Giuditta, Felino, San Felino come potete immaginare è un mio punto di riferimento fisso nelle preghiere, San Macedonio. E tra gli avvenimenti che si festeggiano oggi, nel 1972 Berlinguer al 13° congresso del PC diventa segretario e si tiene ovviamente con l'avvenimento del lingotto, con modesta ironia da parte mia. E nel 2013 invece oggi è il giorno in cui si elegge al soglio pontificio Papa Francesco Bergoglio l'argentino, esatto, e quindi siamo a questo. Auguri a Giampaolo Galli, a Bruno Conti, a Giancarlo De Sisteri, quando ero giovane era un punto di riferimento della nazionale della Fiorentina, a Emanuele Fiano del PD e a Manuele Agnelli, il musicista che è diventato improvvisamente famoso per tutti, da che eravamo in pochissimi a conoscerlo. Ti piace questa musichetta dell'almanacco o ti disturba sotto? No, a me non disturba affatto, perché io sono uno abbastanza consapevole del fatto che presto molti di noi andranno a casa in questo gruppo editoriale. Ah, e quindi ecco, no, volevo approfittare. Buon lunedì a tutti noi. Come già ho detto, venerdì e sabato nelle trasmissioni che ho condotto, solidarietà piena da parte mia, che sono un esterno conduttore, a tutti i giornalisti del gruppo Sole 24 Ore per quello che avviene. E la frase che ho detto, spiegandola più a lungo oggi, non devo farlo la terza volta, ma insomma la credibilità di tutti i giornalisti di un gruppo editoriale risiede nella trasparenza della casa a cui si appartiene. Quindi se la casa non è trasparente, succede che chiunque può dirci: ma insomma, perché criticate, voi parlate, ma questo è un bene che io spero l'azienda, gli azionisti eccetera sappiano preservare. In ogni finora caso, no, noi siamo qui finché ci siamo, alle 8:23 minuti. Allora, parleremo di tanti argomenti. Tra l'altro, Oscar, oggi abbiamo richiamato il direttore dell'Olaf, cioè l'ufficio dell'Unione Europea che controlla tutte le frodi, tutte le probabili, possibili frodi europee con fondi pubblici. Anche perché, appunto, perché ci ha raccontato delle belle cose. È importante quello che avviene con questo o quel partito, la Le Pen, insomma. Ma ci sono cose di un impatto notevolmente maggiore economico, tra poco le vedremo. Dopodiché è stato un weekend in cui la politica è tornata alla ribalta, c'è la polemica a Napoli per Salvini che si è presentato, scontri, la moglie del sindaco De Magistris che dice i Black Bloc si sono infiltrati in un corteo assolutamente pacifico. Questo c'è, perché c'era il anche suo lei, marito eh? Aveva detto il corteo era pacifico, e vedendo le immagini uno diceva: ma sì, forse non troppo. Però lei dice il corteo era assolutamente pacifico e c'erano questi Black Bloc, si sono infiltrati. Poi insomma la questione Salvini è giusto. Ma secondo me è la base che Salvini, anche con tutto quello che ha detto di Napoli in passato eccetera, possa parlare, debba democraticamente dire la sua. No, però c'è il sindaco di Napoli che dice questa è una città che non gradisce, non la vuole i razzisti, e ha detto anche a Napoli lo Stato sono io. testuale. Sì, questo dei magistris, in cui decido io. Mi dà l'idea così, a naso, di una teoria delle istituzioni un po' ecco, su cui discutere quantomeno, perché se ogni sindaco dice lo Stato sono io, non è così, ecco, ma se dai una risposta così all'esame di diritto costituzionale, il professore dice, guarda, porta, la porta destra. È quella, la porta è quella. Le tasse moi, l'aveva già detto qualcun altro. Sì, così, vai con la statua equestre, direi io. Però. No, però insomma mi sembra normale. Poi, per carità, polemiche che sono finite un po' nel nulla, fino alla prossima uscita di Salvini da qualche parte. Sì, però di Peppino Di Capri ce n'è uno. Il Peppino Di Capri che è andato a vederlo, siamo anche qui. Con i due CD, fantastico. Ha trovato il modo di... Ha consegnato i due CD, insomma. No, io apprezzo molto che riesce sempre a trovare il modo ironico per fare capire come forse bisogna mettere tutti. Ecco, Peppino Di Capri ha dato un contributo alla sdrammatizzazione, certo, se ci pensi. Certo. Ecco, perché è andato lì e ha detto: che problema c'è? Ero curioso. Tra l'altro, l'ho ascoltato. Uscire dall'euro, no, mi sembra una cavolata. Ecco, mi avevano detto che era un mio ammiratore. Io gli avevo detto: tu però hai detto delle cose su Napoli. Insomma, ha fatto di più per svelenire il tono Peppino Di Capri di tante. Però io lo so che tu avevi l'auricolare al lingotto per due giorni, quindi... L'auricolare al lingotto, lo so, hai sentito tutto. Non ho seguito, insomma, dire come gli operatori dell'informazione devono fare. Ho visto resoconti sui giornali, va bene, riparte Renzi con la lotta al giustizialismo. Io continuo a non capire, c'è qualcosa, ma questo forse nei prossimi giorni sentiremo qualcuno, perché la mia è una curiosità politica vera. Ma come ti ricandidi segretario? È ok, ti ricandidi segretario e presidente del consiglio, allora però ci devi dire come vuoi cambiare la legge elettorale di qua al 2018, perché col proporzionale puro i segretari non fanno più il presidente del consiglio. Una cosa alla volta, prima deve riconquistare la segreteria del PD e poi quando c'è l'elezione. Ha detto che si parlava solo di programma. La legge elettorale non mi sembra proprio una cosa così secondaria, perché modifica in radice il sistema politico italiano. Il segretario di un partito in legge proporzionale pura va solo col pedale pigiato sull'identità, quindi non è l'uomo per fare i governi. Ma questo non è che lo dico io, funziona così il proporzionale, però vedremo, come giustamente dici tu. Però con noi lo abbiamo richiamato perché ci aveva molto incuriosito l'ultima volta che l'abbiamo chiamato, circa una settimana fa. Ci aveva detto delle cose che volevamo approfondire. Noi lo ringraziamo perché è tornato con noi il direttore dell'Olaf, cioè l'ufficio antifrode dell'Unione Europea, è l'italiano magistrato Giovanni Kessler, che salutiamo, ben ritrovato e grazie di essere ancora qui, direttore. Buongiorno. Allora, perché ci eravamo lasciati quando sui giornali era emersa tutta questa vicenda di presunti utilizzi di soldi pubblici da parte di alcuni europarlamentari in maniera impropria, questo almeno certificato dall'Olaf. Ma lei poi ci aveva detto delle cose anche più profonde che l'ufficio che lei dirige ha scoperto. Per esempio, ultima, proprio quel giorno ci aveva annunciato di una possibile truffa ai danni dell'Unione Europea per 2 miliardi di euro che riguarda il governo britannico e le importazioni dalla Cina. Di cosa si tratta? Esattamente. Ma si tratta di un fenomeno che noi abbiamo monitorato e scoperto durante questi anni, vale a dire dell'importazione in Europa di tessili e di calzature prodotte in Cina, che poi venivano appunto introdotte in Europa a un prezzo falso e falsamente basso. Sì. E così facendo si sono evasi solo in quanto a dazi, cioè, doganali, non pagati. 2 miliardi di euro negli ultimi due anni. Sì, dunque sono 2 miliardi di euro, prima di tutto, di fonti finanziarie perse dall'Unione Europea, quella ai governi anche europei. Uh-huh. Ma soprattutto si è trattato di un, e si tratta, perché è un fenomeno che ancora non è terminato, è un fenomeno in crescita di questi ultimi 4 anni, ma poi si tratta di anche di un fenomeno economico di grande portata, vale a dire il mercato tessile in Europa è stato pesantemente inquinato dalla concorrenza sleale di importatori o di produttori cinesi, sì, che non pagando i dazi all'entrata ovviamente possono competere con i produttori europei in maniera chiaro. E questi prodotti andavano in Gran Bretagna, cioè andavano in Inghilterra. Ma vede, qual come, è il come, problema? Come sono porto prodotti di sbarco che entrano in Europa, e l'Europa è ancora l'Unione Europea, è, per quanto riguarda le dogane, ad esempio, è un unico paese, c'è un unico confine dell'Unione Europea. Una volta che io entro in Italia o in Belgio o in Inghilterra, io non sono in Italia, in Belgio e in Inghilterra, sono nell'Unione Europea, come sappiamo, e questi beni entravano nell'Unione Europea e tramite l'Inghilterra. Perché proprio in Inghilterra? Perché in Inghilterra le dogane inglesi chiudevano un occhio sul prezzo che veniva dichiarato all'entrata, o meglio, accettavano il prezzo ridicolmente basso che veniva dichiarato in entrata dagli importatori dalla Cina, e dunque si accontentava di raccogliere quei pochi dazi riferiti a un prezzo falsamente basso. I dazi si pagano in proporzione al prezzo dichiarato. Non è male. Teniamo presente che i dazi. Dicevo che volevo dazi coinvolgere. Sono fondi europei, è chiaro. Non vanno all'Inghilterra. Volevo chiedere, Oscar, è una questione anche con la Brexit in arrivo? Questa cosa magari alla Gran Bretagna gliela faremo notare, no? È una buona maniera di farci capire come a volte la cooperazione europea resti uno schema di competizione molto forte, magari usando anche nomi del tutto legali tra stati membri. E tra l'altro tutto questo si iscrive, oggi potrebbe essere il giorno formale per la formalizzazione, appunto, da parte del voto della Camera dei Comuni per la formalizzazione dell'articolo 50, vedremo, perché c'è la procedura, altrimenti saltiamo giovedì e forse neanche questa settimana. Però dovrebbe essere, sia pure con la benefica doppio schiaffo che la Camera dei Lords ha dato al governo May, preservando i cittadini europei. Però la cosa di fondo è che il governo May rifiuta assolutamente per il momento anche di aprire il dossier dei 60 miliardi, che è la cifra del tutto indicativa di quello che le quote dovute comunque anche all'uscita dalla Gran Bretagna. Vedremo, sta di fatto che certo l'Olaf ha aperto in maniera un po' inquietante l'interesse su queste cose. Del resto l'Olaf nella sua storia, devo dire, spesso è stata utilizzata, ma questo in maniera impropria, però l'intransigenza con cui è intervenuta anno dopo anno sui bilanci anche delle istituzioni europee, rivelando che in Europa non tutto è oro, c'è anche il principesbecco anche lì, spesso veniva utilizzata dagli anti-europeisti per questo, ma non vuol dire niente, invece è un contributo alla trasparenza, è l'esatto contrario, no, Kessler? Esattamente, io credo che l'esistenza di una istituzione investigativa indipendente che è capace all'interno delle istituzioni di accertare quello che non va, o di accertare anche negli stati membri, come nel caso che abbiamo appena detto, cosa non va, di portarlo alla luce e di iniziare i rimedi, è una cosa di cui le istituzioni europee devono essere e sono orgogliose. È esatto opposto di dire le cose in Europa. Anche perché iniziare i rimedi vuol dire recuperare i soldi, ecco, perché poi vuol dire recuperare i soldi, non c'è alcun dubbio a recuperare i soldi, che poi sono soldi dei cittadini. Per esempio, guardi, oggi Kessler, su Repubblica c'è una inchiesta sull'affare della formazione, cioè come hanno denunciato anche Roberto Perotti, vedo che lei già sorride. Si racconta per esempio in Italia di 7 miliardi e mezzo polverizzati in 500.000 progetti di formazione nei quali non c'è nessuna valutazione, cioè basta riempire le aule, fare corsi di formazione per i disoccupati, spesso si utilizzano fondi europei, si prendono i soldi ma poi nessuno va a vedere se questi centri di formazione poi riavviano le persone al lavoro. Ecco, da questo punto di vista ci sono... Nessuno va a vedere, non è proprio così, perché ogni tanto qualcuno va a vedere, per esempio l'Olaf. E cosa scoprono? Anche le autorità italiane. E vabbè, ma quello dei fondi di formazione, la formazione normalmente è finanziata dall'Unione Europea, e anche qui è importante dire l'Unione Europea investe molto sulla lotta alla disoccupazione e sulla formazione negli Stati membri, dunque per il benessere, diciamo, dei cittadini. E dunque è importante che questi fondi vadano e servano alle persone giuste, dunque alle persone in difficoltà o alle persone che hanno bisogno di formazione. Il tipo di attività di formazione è un tipo di attività appunto frammentata e come dire, in un certo senso immateriale, che si presta più di altri a frodi, dunque per esempio a corsi fittizi, a corsi inesistenti, sì. che vengono finanziati, per cui anche più difficile da controllare e dunque più esposta alle frodi. Io non ho visto l'articolo a cui lei si è riferito, ma noi abbiamo avuto diverse indagini su questo e ne abbiamo ancora in Italia, ricordo alcuni anni fa, in Sicilia in particolare, dove poi abbiamo riferito alla magistratura, la procura di Palermo in particolare è intervenuta, ecco. Ci sono dei paesi più virtuosi e dei paesi meno virtuosi, cioè, ce lo può dire? Noi come Italia come siamo? Come frodi? Ma guardi, noi evitiamo di fare le classifiche, anche perché sono un po' fuorvianti, non è come se fosse una specie di campionato, diciamo, delle frodi. Intanto anche per un motivo, molte di queste frodi, soprattutto le più pericolose, le più consistenti, sono anche difficili da situare solo in un paese. Insomma, si compiono, sono frodi transnazionali. Europee. Sì, perché ormai il mercato non è che sia solo un mercato italiano, è un mercato internazionale. I crimini economici, appunto le frodi e le corruzioni, si compiono spesso, dire, coinvolgendo attività contemporaneamente in più paesi, per cui è difficile, come dire, e anche può essere fuorviante parlare di un paese invece che di un altro. Diciamo, ci sono paesi che stanno molto più attenti a scoprire le frodi sul loro territorio e a intervenire, e ci sono paesi che, quando si tratta di fondi europei, magari, come dire, non più... sono poi così interessati. Vabbè, ma noi come Italia, da che parte? Noi no, l'Italia. Noi su questa seconda osservatoria siamo quelli molto attenti. Molto attenti. Ah, insomma, l'Italia che se ne dica almeno sul law enforcement, sugli organismi investigativi e procure della Repubblica, ci sono e lavorano. Sarebbe bello avere un paese dove questi organi non dovrebbero essere così, diciamo, importanti o essenziali, sarebbe meglio per tutti, ma come dire, abbiamo probabilmente la migliore mafia, ma forse anche per questo abbiamo la migliore antimafia. Siamo un paese dove ci sono sicuramente delle frodi, ma sicuramente siamo in grado di contrastare la Guardia di Finanza, che all'estero non hanno, e via dicendo. Per cui dal punto di vista della capacità di reazione siamo ben piazzati. Senta, le posso fare che essere una domanda, così le chiedo un suo giudizio personale, è una cosa delicata, però questa sì è di impatto generale, perché io ho tifato molto per lei quando la Commissione europea, in particolare una parte politica, insomma, però la Commissione europea gli è andata addosso un annetto fa, le è andata addosso perché in realtà l'accusa era quella di essere stato troppo intransigente in una indagine che poi è stata un'indagine, secondo me, una delle più rilevanti passi avanti nella lotta per la trasparenza a livello europeo, perché, cari ascoltatori, portò alle dimissioni di un commissario europeo, il famoso caso Dalli, era il commissario europeo alla salute, e fu costretto alle dimissioni per collusioni con la multinazionale, e in questo il ruolo dell'Olaf fu fondamentale, cioè è proprio uno di quei grandi casi costitutivi, secondo me, che affermano nel diritto, di fronte agli occhi di tutti, ma anche dei cittadini normalissimi, quelli che non seguono le vicende tecniche europee, alla faccia l'importanza dell'organo che lei guida, e le vennero addosso perché la commissione iniziò a dire: no, questo signore deve andare a casa, sto chesto, gli leviamo l'immunità e così via. Siccome il tempo è passato e lei, per conto mio, per fortuna è ancora lì, vuol dire che questo aspetto di scontro istituzionale è stato superato. Se dovesse dare un giudizio, ma le resistenze che la commissione spesso ha opposto all'azione vostra dell'Olaf si sono stemperate, c'è una buona collaborazione, però insomma è importante dire alla gente che quello che avete fatto non è che tutti vi battessero le mani negli altri organi europei, no? Ma non è mai così, né in Europa né altrove, insomma, a volte uno preferisce prendersela con chi porta la cattiva notizia, come possiamo essere noi investigatori, piuttosto che con il fenomeno o con chi ha commesso qualcosa di sbagliato. Devo però dire, la Commissione europea normalmente ha collaborato e collabora bene con noi, tanto è vero che quando abbiamo scoperto il caso del commissario europeo che aveva, a nostro avviso, tramite un suo prestanome, tramite un suo amico, chiesto una bella tangente di alcuni milioni per cambiare la legislazione europea, l'allora presidente della Commissione Barroso in poco tempo chiese al commissario le dimissioni, e il commissario si dimise di fronte ai fatti. Dunque vuol dire che la reazione c'è stata, noi non è che siamo quelli che diamo la sanzione, noi scopriamo i fatti, li portiamo all'attenzione dell'istituzione, l'istituzione decide. Noi abbiamo anche raccomandato che venissero prese delle misure, l'istituzione ha reagito. Successivamente, gli attacchi politici di una parte politica in Parlamento europeo, di un gruppo di deputati, diciamo, del Parlamento europeo, ha influito sulla Commissione, che è venuta dopo, e hanno cercato, diciamo che sarebbero stati più contenti se avessi lasciato l'ufficio. E se fosse andato a casa. Ancora qui e finisco il mio mandato qui, proprio perché... abbiamo una garanzia statutaria. Benissimo. Allora, io l'ho detto solo per ricordare ai nostri ascoltatori facile. Che insomma non è tutto rose e fiori. No, noi comunque la ringraziamo, Giovanni Kessler, grazie, direttore dell'OLAF, Ufficio Antifrode dell'Unione Europea. Qua Oscar, arrivano anche tante telefonate, però su vari temi. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi rientriamo, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, siamo qui alle 8:45 minuti, vediamo cosa ha da dirci Adriana da Viareggio. Buongiorno Adriana. Buongiorno Giannino, buongiorno Milan. Eccoci. Vi seguo spesso e sono molto interessata a quello che dite, alle vostre analisi intelligenti. Io ho deciso di chiamare perché veramente, per usare un eufemismo, sono basita, per non dire arrabbiata e veramente delusa, perché ho ascoltato l'intervento di Renzi a Lingotto. Sì. Sono veramente, guardi, io non capisco come quelle scimmiette lì, con tutto il rispetto per le persone che credono ancora in questo personaggio, diciamo, che applaudivano. È andato in America 3 giorni per imparare che non doveva più dire io, ma doveva dire noi. Però in realtà il risultato è lo stesso. Lui si considera, è incredibile, ancora l'unico leader spendibile per un partito che ormai è alla deriva. Lei pensi che io sono una che ha votato sempre PD, ho sempre creduto, ma io non posso pensare che un partito del genere si sia ridotto a considerare questo, mi perdoni, un ragazzotto di campagna con questa sete di potere smodata, l'unico leader possibile. Guardi Adriana, c'è una cosa bella però della politica alla fine, che dopo tutte le discussioni prima o poi si vota e lì i numeri, come dire, uno può pensarla come vuole, ma poi vedremo, ecco, nel senso, lui legittimamente, Renzi pensa di tornare, adesso scimmiette, ma un po' esagerato. Diciamo, una delusione forte, si capiva che la sua delusione è molto... No, è molto delusa. Vedremo poi i numeri, ecco, quando ci saranno anche la corsa alla segreteria. Non si è battuto il petto, non ha ammesso errore, questo è un dato di fatto. Del resto ai leader risulta un po' difficile ammetterli. Vediamo in Italia. Esatto. Alberto da Padova, cosa ci dice? Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Mira, buongiorno Giannino. Sulla falsa riga di quello che ha appena detto la signora Adriana, ritengo che in questo momento quello che dice Renzi, le primarie, io le ascolto con interesse, ma come se io stessi ascoltando una soap opera, perché mi aspetto sempre che dispetto si faranno in futuro, chi andrà contro chi altri, e sono della stessa famiglia. Questa è un po' la storia, anche un po' la sinistra, secondo alcuni. Spingermi un po' più avanti dicendo, ma sono questi i problemi degli italiani, o per esempio bisognerebbe interessarsi di amatrice delle persone che hanno perso tutto nel terremoto? Vabbè, io voglio fare un excursus, perché quando vedo il presidente Mattarella vestito con 1.000 euro di abiti, col caschetto ridicolo che passa attraverso le macerie, dice: ah, non vi abbandoneremo, scusate l'emozione, sì, non vi lasceremo soli. Cioè, allora, io presumo e credo che siano quella la priorità. Sì. Vabbè, però sono due cose... cioè, lei mette insieme due cose ugualmente importanti, ma che possono viaggiare su binari paralleli, no, Oscar? Non è che in teoria le istituzioni devono occuparsi di matrice, esatto. Poi c'è il dibattito interno dei partiti che hanno preso le scopole, il referendum, c'è una legge elettorale completamente opposta rispetto a quello che volevano, che devono dibattere al loro interno, si dividono come nella storia della sinistra. Ma però, Alberto, vedere che ne so, Mattarella col capo da 1.000 euro che va dai terremotati, cosa dovrebbe fare? Va bene, insomma, c'è un po' di retorica in questo, però. Il fatto oggettivo è vero, che per l'ennesima volta è arrivato un terremoto, abbiamo imparato la lezione lì per lì, tutto fatto subito, e poi siamo alle solite Calimero. Questo è proprio, l'Italia non ci riesce, gestisce benissimo l'esaltazione oggi la Repubblica racconta anche degli sciacalli del terremoto con le procure che stanno indagando, arrivano i denari pubblici, qualcuno che pensa di prenderli c'è sempre. Caro Oscar, abbiamo parlato. Io ti dirò, il fine settimana la cosa che più mi ho apprezzato giornalisticamente sono state le due pagine della stampa sui farmaci salvavita che noi non passiamo agli italiani. Sono 3 miliardi e gente che muore. Però oggi infatti, il presidente dell'AIFA Melazzini ha detto: esatto, rimedieremo. Perché ti dirò che anch'io lì non mi si può dire non c'entra. Ho subito pensato: ma se noi cacciassimo tutti quelli dei 100 Loreto Mare che abbiamo nella sanità pubblica italiana, all'ospedale di Napoli con gli assenteisti così elevati, forse un po' più di salvavita li daremmo, e siamo nello stesso comparto, quindi lì non è una logica come dire che non c'entra niente. Però l'idea è che ci sia gente che per patologie che portano alla morte certa non hanno i soldi per avere questi farmaci, e noi dicono: ci dispiace perché lo Stato non te li passa, è pesante. Allora, Oscar, noi dobbiamo salutare, e lo facciamo con piacere, Fausto Biloslavo, che è inviato in questo caso del Giornale, sta in Iraq e sta raccontando quello che succede in un paese che fino a qualche anno fa era al centro dell'attenzione, adesso sembra un po' dimenticato, ma Fausto, buongiorno. Buongiorno. C'è ovviamente un po' di ritorno, nel senso di ritardo nelle comunicazioni. Dove ti trovi? Tu sei soprattutto a Mosul, hai raccontato di questa diga dove ci sono i militari italiani, no Fausto? Bersaglieri. Io adesso mi trovo sul fronte di Mosul, sul fronte della grande battaglia, la madre di tutte le battaglie, avrebbe detto Saddam Hussein, per liberare l'autoproclamata capitale del califfato in Iraq. Ormai le forze irachene hanno conquistato tutta Mosul-Est e il 40% di Mosul-Ovest. Le bandiere nere continuano a combattere duramente metro per metro, casa per casa. E in questo momento sto seguendo i miliziani sciiti che anche combattono assieme all'esercito iracheno per arrivare alla loro base, perché è stata appena scoperta una fossa comune, sembra con 500 corpi, vicino alla prigione di Mosul. Tutti ammazzati, passati per le armi dallo Stato Islamico. Ecco, Fausto, volevo chiederti una cosa: ma è vero che con Trump e a Mosul adesso per la prima volta ci sono 400 Marines della 11ª Expedition di Forze Marines con batteria di obici sul campo, che coordinano sul campo con la loro presenza, quindi boots on the ground, insieme ai russi l'intervento, e questa sarebbe in definitiva la prima svolta vera di una presenza militare non solo aerea americana ma coordinata con i russi, è vero o non è vero? C'erano anche prima, solo che non si facevano vedere perché gli ordini della presidenza Obama erano quelli del basso profilo. Adesso i militari americani sono ringaluzziti. Io sono entrato 2 giorni fa nella loro base, dove hanno l'artiglieria che martella quotidianamente le postazioni dello Stato Islamico a Mosul. Mi hanno fatto vedere, filmare tutto, intervistare il tenente colonnello che comanda l'82esima comanda lo squadrone dell'82esima divisione aviotrasportata. Ieri è uscito il mio servizio, il mio reportage sul giornale, che poi è stato rilanciato, dato che io sono multimediale, faccio tutto, anche video, Twitter, questo, fa tutto, è stato rilanciato addirittura dal comandante americano della coalizione alleata, perché gli americani adesso aprono ai giornalisti, cominciano a aprire i giornalisti, vogliono far vedere che ci sono anche loro, e non ci sono solo i russi in Siria, ma ci sono anche gli americani in Iraq e pure in Siria. Quindi è cambiata la politica di comunicazione, più che altro. Certo. Okay. Questo è importante. Senti, invece gli italiani combattono, noi. Chiaro. Raccontaci dei militari, dei militari italiani che sono lì a protezione di questa diga di Mosul. Sì, i militari italiani hanno un ruolo delicato e strategico, perché proteggono la grande diga di Mosul, che, per dare l'idea, sta a 38 chilometri dal centro della città e a 12 chilometri solamente dalle postazioni delle bandiere nere. È una diga lunga 3 chilometri che ha un bacino di 9 miliardi di litri d'acqua. E tenete conto che se questa diga fosse attaccata o cedesse, infatti c'è una ditta italiana, per questo siamo là a proteggere 300 lavoratori italiani, se questa diga cedesse, perché la diga è un po' vecchiotta, insomma, sta in effetti cedendo, ma se cedesse del tutto con un attentato, un attacco, insomma, attentasse, in 6 ore l'acqua non solo sarebbe via Mosul, ma arriverebbe a Baghdad. E quindi è un ruolo cruciale che stiamo giocando con 500 bersaglieri che difendono tutta l'area, che significa con postazioni trincerati, armi contro carro, pattugliamenti, droni per controllare il movimento delle bandiere nere, e ovviamente c'è una in collaborazione con i curdi che garantivano anche prima, appunto, avevano riconquistato la diga strappata alle bandiere nere. Beh, insomma, noi Fausto intanto ti ringraziamo per questo reportage dal fronte, perché poi Oscar ce lo dimentichiamo, Fausto Biloslavo appunto si trova come dire lì sul fronte in Iraq, dove si combatte contro l'ISIS. Mosul, ricordiamo, il nord dell'Iraq, è stata una delle prime città conquistate in Iraq dall'ISIS e ora va liberata. Grazie Fausto Biloslavo, ovviamente buon lavoro. Grazie, sì, la comunicazione alla fine è un po' caduta, ma comunque insomma, speriamo che cada Mosul e Raqqa, che sono i due centri dell'ex dell'ISIS, Ali Baghdadi, esatto, sembrava intoccabile, poi come si vede, però i costi sono terrificanti, di vita umana. Sì, se non avete capito, appunto, ci ho detto, 2 giorni fa è stata scoperta una fossa comune con 500 vittime, proprio lì a Mosul. Allora, dai, ci fermiamo qui con Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Pescapè in regia. Ci troviamo tu alle 4:30, caro Oscar, e noi qui. Ma domani. Tu non ti autosospendi? No, noi non siamo autosospesi. No, va bene. Siamo qua, sveglia alle 5 e qua, boots on the ground. Boots on the ground. Ciao.